buon pomeriggio. Quello che sentite rumoreggiare, scusate, in sottofondo è il Bisagno, è il principale torrente cittadino, quello che è esondato circa un'ora e mezza fa, innescato praticamente dall'onda di piena del Ferreggiano, che è uno dei suoi affluenti. In seguito a questa onda di piena del Ferreggiano c'è stata la vittima di cui parlavate, una, pare una donna, e i tre dispersi di cui parlavi te nella presentazione del mio servizio. La situazione è drammatica, io per arrivare in questa zona ho praticamente guadato un lago che si era formato nella zona di Piazza Martinez, e ho raccolto alcune voci, ascoltiamole. Non passavano più nessun mezzo, ho avuto un passaggio fino giù, poi ho visto distrutto un morto. C'è un morto col telo di fronte alla pizzeria Sole Mio. Ah, in via Ferreggiano? Sì, un'ambulanza distrutta, un autobus distrutto e un macello. Come c'è? È sceso il filibondo, ragazzi, ma tombini sporchi, tutto sporco, Bisagno che fa schifo, tutta la casa. E da stamattina alle 10 è tutta la casa. Io ero un bar in via Filippo Casoni, c'è l'acqua a metà saracinese, quindi dentro ce n'è di più. Noi ci siamo allagati sulla carrozzeria, tutta allagata con tutte le macchine dentro. Andrea, una situazione, lo abbiamo sentito dunque, gravissima, e ci segnalano grossi problemi anche alla stazione di Brignole. Sì, la stazione di Brignole praticamente è a circa 100 metri da dove vi sto parlando, vedo i mezzi di soccorso che stanno intervenendo, non so però darvi conto esattamente di quello che sta accadendo, ma riassumendo quello che è accaduto circa due ore fa, la situazione è più grave nel quartiere di Marazzi, dove, ripeto, è esondato il Ferreggiano, l'onda di piena del Ferreggiano ha scatenato quella del Bisagno. In questo momento è un dato importante, non piove più, ma come viene ripetuto ormai da ore, se non da giorni, dagli esperti del meteo, non è finita, ci sono ancora almeno 24-36 ore di pioggia attesa sulla Liguria e anche sulle zone alluvionate, dove per il momento piove in maniera piuttosto debole. Per il momento dalla Liguria, da Genova in particolare, da Ponte Castelti d'Ardo, sul Bisagno in piena è tutto linea allo studio. Grazie al nostro Andrea Ferro, e sentiamo com'è la situazione anche dalla sede dei Vigili del Fuoco di Genova Centro. Sentiamo il microfono di Alessandra Tedesco. Siamo veramente un disastro, perché è straripato il Bisagno in certi punti, io ho ricevuto almeno 300 telefonate nell'arco di un'ora, abbiamo la nostra sede operativa che abbiamo difficoltà anche a contattare tra di noi, perché saranno saltati dei ponti, abbiamo problemi, ci abbiamo tutte le squadre fuori,